chiamato per la cena, ci sentiamo magari dopo. Lascio inteso qua, ciao ciao. Ciao Marco, ciao. Buona cena anche a te. A più tardi, ciao. Appa, ciao ciao. Sto dormendo su. Ehi, tu ti addormentati, so. A tasso della troppo. Vai 26275, c'è Biff parlando con gli Stati Uniti, con Canada. Tutti e due Santiago 920, in USB. Che canale risponde? Se no, non ho frequenza. Canali sotto, dei canali sotto, quindi in pratica ti devo corrispondere. Primi canali sotto che c'hai. Mi primi, banda A, dovrebbe essere a te. In che banda sei adesso? Banda ABCD, allora, banda ABCD, banda di soli. Quindi dovrebbe corrispondere a te in banda, dovrebbe essere. Banda B, ma su questo canale. Oh, su questo canale. Io vado là e metto a portante, tu mi cerchi là, o prima. Fai prima, vai. Non ti fissai, tu la cerchi. Ok, vado in B e ti cerco. E vai A, B e C fai. E tu, vedi, io schiaccio dalla portante. Ok. E la frequenza, ciao, tu è pronto. Pronto sei tu, hai detto 26275. Io dico io qua, 26275. 26275, praticamente, aspetta. Aiuto, allora dai, così ti fa un paio di... Ma se arriviamo in casa, allora dai. C'è Tenerife, arriva 9:20. Ah, 26? 26, 2, 7, 5. Ok. Dove state? Ah, io tutti là. Ah, io non posso venire perché c'è un apparato piccolo. Certo che non c'è più funzione. All'altro, dai, non ti costa nulla attaccare quello, attaccare l'altro. Attenzione, canale 10, becco. Sempre a spostare il canale. ha dato un grande elicottero, è salito, pensavo che la batteria mi ha dato già, è pesantuccia, tutte le cose che gli mettono loro, è una cosa proprio pesata, giusta. E quando saliva, no? Un po' si rinnovava questa ricotta, cazzo, poi mi è cuota, faccio controllo, è sceso a picchiare da minimo di 10 metri e mi si è rotto il coso a terra del piano, mannaggia. Ma quanto stasera? La completa, no. Fate su e su. Sono un cane. Ecco. Tanti. Luca. Chi è? Sandro Torres. Mi ha fatto spaventare. Mi ha fatto spaventare, no. Siccome ho dei problemi con l'altro mic, sto provando il mic al mare. Com'è? Mi ascolti? È fortissimo, sa. Ma sono poco. Non ti ho capito lui. Ho detto. Ma basta poco. Vedi un po' la modulazione, com'è? Un mic normale, lui. Certo, se un mic normale è stata un po' amplificata. Amplificata, ma è chiara? Venga. Come senti a Sandro? Negativo, ma io perché sono io in una condizione precaria. Ma non si va a casa. Negativo. Non ho 30 qua. Sì, ma perché sono vicino al tuo QTH. Oh, ecco. Va bene. Un casino. Ah, rotto. Lo stavo dicendo comunque dell'elicottero, no? La mattina è troppo pesante, mi mancollavo un po' quando ho preso del collo. Non sono riuscito più a comandarlo, ho perso il controllo. Stai facendo picchiarla. Poi di nuovo ha fatto rivolare. C'è praticamente la capriera, la campetta, non lo centrale, e quello che va giù, verso la cabina, no? Quella lì, l'ho fatto rivolare e l'ha andata più in mezzo alla strada. Certo, ma non è passata nessuna macchina. C'era un bambino lì, me l'ha preso lui. Si passava la macchina, poi c'era mica un pezzo. Ma il tuo come è radiocomandato o è telecomandato? Telecomandato, quelli quelli grandi, non è piccoli piccolini. Allora è radiocomandato o telecomandato? Non è più così. Radiocomandato. No, perché guarda, quelli telecomandati sono una figata, però vanno bene in casa. Perché come c'è troppa luce non ricevono i raggi infrarossi del telecomando, ti parte dell'elicottero, ti dà quota e non ha già più niente. Cosa qua va in... Come adesso qua? È in 40 mega. Guarda, è 40 BT7, è molto vicino alla banda sempre della CB, di entrambi i CB, perché tu lo sai che poi dei 43 MHz volevano fare la nuova CB, no? No, non lo so. Ma io quando parlo della macchina mica lo disturbo. O meno. Aspetta. Non so se fatto anche l'altro giorno. Lo accesso. C'è una macchina che l'ho disturbata. Assolutamente. Dice che ci sono quelli e lo vuole 27, quello di Gianni dice che Baracchio rientra, fanno anche tu a farsi benedire. Non li può fare giù di si parla di micotte di cinese. E poi la base, no? Cosa in plastica? È una plastica morbida, si è spaccata, cioè sembrava morbida, se la piegava si piegava. Si è spaccata del tutto, se la plastica voglia non si spaccano quando prende il colpo. Cioè è spaccato, mannaggia di tutti. Poi vabbè, pazienza. Guarda, io ne avevo preso uno che era una gaggata, nel senso brutto da vedere, brutto perché era molto semplice, non aveva quelle come si dice, quell'aria, quel design appuzzolato. Molti sono davvero carini. Questo era proprio brutto, proprio l'elicottero sembrava l'elicottero degli anni 30. Beh, l'ho sbattuta in terra una cinquantina di volte, prestato amici, sbattuto da tutte le parti. Ci sono stati momenti dove ho detto, ma fino che non ci abbiamo più, è puro, tutta, sai cosa vuol dire? Niente, niente. Quanto provata più o meno? Quanto saliva? Allora, ti sto parlando di quello a raggi, a coso, telecomandato che avevo piccolino per casa. Adesso invece ne ho comprato uno radiocomandato, però c'è un difetto, inizia ad andare in autorotazione sulla destra come perde un po' di batteria. Capito. Capito. No, questo qua gli ho messo la batteria a 1000 mAh. Invece non avevo un bel potente, ma un bel sale proprio di... Ah, quando lo faccio salire, no? Che poi abbassano il gas, no? La regolazione della potenza. Scende. Benissimo, perché ho pilotato sempre all'interno dell'appartamento, me lo facevo atterrare in testa, figurati. grande è un po' più ostico, nel senso che è un po' più difficile da, da guidare, soprattutto in esterno, perché in esterno basta una colata di vento davvero che se lo fa a fondo. Questo qua è molto potente, ma entravamo sulla batteria di Gianni, è molto potente, se qua mi arriviamo ne arrivo. Dopodiché per vedere se è equilibrato l'aereo, l'elicottero. devi prendere le spalle di sotto, le allarghi, le metti al croce rispetto a quella che è la fusoliera dell'elicottero, e tenendole per l'estremità, l'elicottero non deve né beccheggiare né tornare indietro, deve stare per fermo. Kit per fare la preferia. fare. Eccolo qua. Chi ti fa fare la birra in casa? Chi ti fa fermentazione? Lascia vedere. E che cacchio, PayPal. Negozio online. Forum. Aspetta, forse non lo so qua. Dove stiamo? Catalogo, istruzione, ricetta, novità. No, aspetta. Vediamo un po'. Matto lupo. Ah, eccolo. Ma vedi, ma è un bidone, cos'è? Quello è il fermentatore, quello è dove metti l'acqua insieme al mosto, cioè dove metti il mosto, che il mosto non è che l'acqua insieme al malto e allo zucchero, devi mettere che ci rimetti il lievito per farti lievitare, e la cosa, un processo chimico fa sì che lo zucchero si trasformi in alcol, e di conseguenza ti dà l'alcol alla birra, cioè il grado alcolemico della birra, dopodiché lo devi imbottigliare e niente, e ti devi far riposare, riprende il gas, si gassa e poi te la vi. Cavolo. Ecco. Allora, chi ti fa chiaro, molto chiaro. Uno molto chiaro. Molto bitter, molto scuro, molto chiari diversi più due. Più euro 12 lira. Sta qua per farti vedere. Ah, vedi, no, no. Ah, ecco, qua. Notizia. Ah, ecco, vedi. Questa specie di detrosio monoidrato. Di glucosio, un chilogrammo. Ordinabile solo con un kit di fermentazione. Beh. No, quelli lì poi sono tutte le aggiunte, se la vuoi fare a doppio malto, oppure se ci vuoi mettere al posto del saccarosio, che è lo zucchero normale da cucina, ci metti il destrosio, che è lo zucchero che c'è, è al pari del fruttosio, cioè uno zucchero che come si dice, i fermenti digeriscono con più velocità, capito? Quindi hai un processo più veloce di fermentazione. Fatto sta che tu immaginati che con 10 euro ti fai quasi 30 litri di birra. 10 euro ti fai 30 litri di birra? Ma veramente? Tu immaginati che la bottiglia da 75 quella che bevi tu, no? Anzi, bugia da 60, 66. Facciamo che sia da 60. 7, 14, 21, 28. Te ne fai esattamente 40 bottiglie, con 10 euro 40 bottiglie. Allora, la fai una, però a me non mi piace del doppio malto, normale, una birra normale, tipo una birra, capito, che non usa così. Vabbè, comunque falla, la fai, me la fai assaggiare. Affatto, però le birre, il problema è che a seconda della stagione tu devi cambiare birra, perché d'inverno ci vogliono le birre più corpose, l'estate ci vogliono quelle più leggere, tipo le lager, mentre invece d'inverno ci vogliono cosiddette ale, che sono al pari della Cherry Strong, le birre speciali, capito? Sì, sì, sì, sì. Assaggiamo, no? Aia. Vale. Assaggiamola. Tutto un attimo, sto guardando una cosettina qua. Buh, niente macca. Aspetta un attimino, ecco. Stavo guardando una cosa. C'è una cosa? No, una persona che non è stata neanche in linea oggi. Ma lasciamo perdere. Chi è? Diga via. Ma non si è fatta vedere per nessuna ragione. Non sentire niente. Te l'ha avuto a fare, non so adesso per il telefono. No, non c'è mai nessuno, lui no. Manco si mi pare a preso d'oro. No, no. Bene, non ti abbassare, sii uomo, che l'uomo duro si comporta così, fai bene. No, no, no, assolutamente tu. E ti posso dire una cosa. Ti posso dire questo, che le ha fatti i biglietti, ha speso oltre i 400, 500 euro per venire qua. siccome lui si sta comportando in una maniera che a me non piace, sempre ragioni tu qua, tu là, sempre colpa mia, e ti faccio vedere, io dico, non ce ne come, poi ti trovare. Dimmelo allora, così trovo a me. Vai a finire, ma secondo me ti devi comportare così, perché sono i pellegrini che si comportano così. Ti posso dire che fosse giusto? No. Cioè a me è di Balugru un po' come inviati, perciò basta così. Non per il giorno lo prende per il culo perché non ti ha chiamato, perché non ti fa da sentire. No, ma non mi interessa un cazzo, telefoni mi aspetto tanto. Perciò non può neanche chiamare, non mi interessa. Vabbè, se la pensi così anche questa non è sicura. No, no, no, ma ripeto, non... Ho preso per il culo non mi piace tanto, poi. Se la gente gli piace farsi prendere per il culo è un'altra cosa. A me? No. No, me interessa. Puntura. Boh, non penso che sia lei. Cioè, ma chi è una che si alza alle 6 del mattino ancora a fare la guardia nel ristorante? Ma te ne rendi conto? E gli hanno 1200 euro al mese. Hai capito? Ascolta, su YouTube ci... come ti ricarica il filmati velocemente? Guarda, prova a scrivere, questo è un progetto che avevo fatto io. E ti devi scrivere Schirru Pelosa. Schirru Pelosa. Pelosa è la Pelosa, è la spiaggia della Pelosa. Schirru Pelosa, sì. Allora mi ha detto Pelosa Schirru Pelosa Pelosa Schirru. Poi se tu vuoi fare due risate tu devi scrivere un giorno se a casa scrivi siciliano l'originale, questo qua è un tipo che sta in questo programma dove sono io a fare gli scherzi al telefono, allucinante, addirittura a questo tipo. Era un come si chiama? Un medico, vabbè quindi sai, quando uno si vuole suicidare, no? Cerca di aiutarti, no? Anche via telefono, sai, no? Dai, non lo fare. Alla fine gli ha detto, guarda che non schiamo, gli ha detto, ma di Sardo, questo qua gli ha detto, sì, sono di Cagliari, gli ha detto, no? Gli fa, guarda che siamo scherzi a parte. Cioè roba di 20 minuti prendono per il culo. Cioè sempre lui faceva due voci, se non sapeva neanche lui, aveva una voce che non sembrava neanche lui. Ma lui diceva, dai, stai tranquillo, non ti preoccupare, non fare queste cose. Tu devi scrivere siciliano originale su in alto per cercare questo tipo. Qua mi dischiazzo questo qua. Lascia parlare quello che ti ho detto. Psicologo o psichiatra. Ma è questo siciliano? Ma qua è siciliano, vive in Germania. Sì. Ma adesso ho fatto ricordare questo qua, non fuori di testa, è allucinante. Guarda, se ne inventa tutte. Ti fa remix, guarda, amici di altri. Allora, mi ha detto, Pelosa. La Schirru Sicchino. La Schirru. Schirru Trentino? Via. Mi dà nulla. Cerca. Aspetta. Ah, ma è per stazione il petrolio? No. Ah, ma guarda, quella cosa l'ho progettata io, quel filmato l'ho fatto io. Guardaci. Fate una scarica attraverso il aspetta. Manifestazione del pretore, no. No grazie, no thanks. Aspetta un attimo. Guardi, a un certo punto ci sono io col megafono. Aspetta un attimo, mi abbasso qua. che non passassero le petroliere lì nel golfo della Dinara, diciamo, eh? Sì, sì, vabbè, quello di petroliera, pardon. Sì, sì, sì, ho visto. Cioè, questa petroliera è stata fatta, disegnata da queste persone. Progettata io, 680 persone sono venute. Cazzo, vicinante, va. Il testa. Abbasso qua. No, mi sentivo a te soltanto. Sta saldando un bel. Forse riesco a farti sentire qualcosa. Aspetta, allora. Aspetta, faccio fare due risate. Allora, siciliano. Aspetta. Siciliano. Lo. Siciliano lo. Originale. Vediamo un po' se. Non sbagliare, siciliano. Siciliano originale. Siciliano. Siciliano. Ah, eccolo qua, siciliano originale. Scherzi tra i pollici, libro costruzione ci mette di giù le golita. Servi di zio iene. Aspetta. Vediamo un po'. È un pazzo. Un attimo, un attimo.